Sole 24 ore. Condono PDL ancora spaccato, Berlusconi rilancia la campagna acquisti. Lega divisa sul segretario di Varese. Egitto vertice d'emergenza dopo gli scontri al Cairo. Oggi la nona giornata mondiale contro la pena di morte. Una buona giornata dalla redazione e da Valentina Furlanetto. In primo piano la polemica sul condono che coinvolge maggioranza e opposizione. In diretta Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Al centro delle mosse economiche dell'esecutivo resta dunque la necessità di trovare nuove risorse in tempi rapidi con l'obiettivo di varare l'atteso decreto sviluppo entro la fine di ottobre. Di qui il dibattito all'interno della coalizione di governo sul ricorso meno a condono fiscale, misura questa che secondo ampie parti del Popolo della Libertà porterebbe i fondi necessari per la crescita. Ne è convinto Silvio Berlusconi, lo ribadisce questa mattina il capogruppo alla Camera Cicchitto, che bolla come ideologiche le prese di posizione contro il provvedimento che, a detta di Cicchitto, permetterebbe di intervenire sul debito in misura importante. Il condono non va demonizzato, aggiunge la russa. In pratica la sanatoria allo studio prevederebbe che la Svizzera giri a Roma una tassa applicata sui depositi degli italiani nelle banche elvetiche. Dallo stesso Popolo della Libertà però a dire no al provvedimento è il sottosegretario all'economia Casero, che riprende la posizione più volte espressa da Tremonti. Scettica anche la Lega. Non ho capito perché il condono, forse vogliono i soldi per fare nuove leggi ma non ne so di più, spiega Bossi. Ferma l'opposizione nel bocciare qualsiasi sanatoria, lo stesso i sindacati e gli industriali. La misura, spiega la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, arriverebbe in un momento in cui dobbiamo combattere fortemente l'evasione fiscale e l'illegalità, e la logica del condono dà un messaggio assolutamente sbagliato in quanto premia i furbi, mentre noi, dice Marcegaglia, abbiamo bisogno che tutti paghino le tasse e rispettino le regole. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Intanto il premier Silvio Berlusconi rilancia la campagna acquisti per la sua maggioranza. In diretta Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Sicuro, malgrado le sfide che l'aspettano, la prima quella dell'Aula, quella del DDL intercettazioni in votazione a Montecitorio questa settimana, Silvio Berlusconi non molla. Angelino Alfano l'ha ribadito anche ieri, il cavaliere alle prese con l'allargamento della maggioranza. I malpalcisti del PDL, Scajola e Pisano, tanto per intenderci, i frondisti, non andranno da nessuna parte, almeno questa è la tesi del premier. Tutto questo in attesa dell'incontro tra Alfano e Scajola, probabilmente mercoledì, e qui magari potrebbe scattare qualche poltrona, tanto da non escludere nemmeno quella di ministro, ancora una volta per lo stesso Scajola. Attesa anche per il decreto sviluppo, con lo stesso Scajola che chiede una scossa nel partito, convinto che l'ex ministro non romperà anche Denis Verdini, ma c'è anche il caso del governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, che vorrebbe un accordo con l'UDC, escluso D'Alfano, perché i centristi vogliono la testa di Berlusconi. Attacca Sandro Bondi, Formigoni è un ingrato e vuole un suicidio politico. Tra i dissidenti infine anche il sindaco di Roma Gianni Alemanno, e c'è chi parla di un incontro a tre proprio tra Alemanno, Formigoni e Scajola, previsto già per domani. Per il momento qui da Roma è tutto per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito, ma la Lega resta per il momento divisa. Le tensioni ieri al congresso provinciale a porte chiuse, che ha sancito la nomina del nuovo segretario della Lega a Varese, Maurilio Canton, erano fatte di contestazioni e tessere strappate. Oggi stanno tutte in un'immagine, quella dello striscione appeso nella notte all'esterno della sede della segreteria provinciale del Carroccio, in via Magenta. Canton, segretario di chi? Di nessuno, recita la scritta su fondo verde. Contro il neo segretario imposto dall'alto su indicazione di Umberto Bossi, nominato e non votato, lamentavano ieri la metà degli oltre 300 delegati, si condensano i malumori di una base leghista sempre più critica verso il senatore e il cerchio di fedelissimi, opposti ai cosiddetti maroniani. Così il partito è finito, questo è un soviet, hanno urlato ieri i contestatori dopo i molti interventi critici dal palco. Oggi la consegna al momento è quella del silenzio. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non si smorzano le proteste del mondo della scuola. Non caldo ma rovente si preannuncia questo autunno per la scuola e per l'università. Dopo le proteste di venerdì che hanno portato oltre 100.000 studenti in 90 piazze italiane, si apre una nuova settimana di mobilitazioni. Mercoledì manifestazione della CISL a Roma, venerdì sarà la volta della UIL a Firenze, ma grande attesa soprattutto per la giornata internazionale della rabbia che si terrà sabato nella capitale. E a nulla sono valse le aperture del ministro dell'istruzione Gelmini, che su Repubblica ieri si era detta pronta ad ascoltare gli studenti. Affermazioni tardive e sconcertanti le hanno bollate gli universitari, che continuano a chiedere le dimissioni del ministro. A chiudere le proteste del mese di ottobre sarà la UIL il 28, con uno sciopero di tutto il pubblico impiego contro le politiche del governo. Mentre l'11 novembre, giorno d'avvio dell'anno accademico, scenderanno in piazza tutti gli universitari. Tra le richieste più urgenti, finanziamento straordinario per affrontare le questioni prioritarie del diritto allo studio, del reclutamento in ruolo e del rilancio della ricerca. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Passiamo alle notizie economiche con una notizia appena giunta in redazione. L'agenzia ANSA ha appena battuto la decisione per quanto riguarda il Nobel dell'economia di quest'anno. Il premio è stato assegnato a Christopher Sims e Thomas Sargent. Nelle prossime edizioni vi diremo più precisamente le motivazioni di questo premio dell'Accademia di Svezia. Ad agosto la produzione industriale italiana è salita del 4,3% congiunturale, il dato più alto dal 2000, e del 4,6% tendenziale. Lo comunica l'Istat, aggiungendo che secondo l'indice grezzo la produzione industriale in 8 mesi ha segnato un più 1,3%. A moderare l'entusiasmo è però arrivato il super indice dell'OCSE, che in agosto è sceso per il 5° mese consecutivo di 0,5 punti a 100,8. All'Italia è andata la maglia nera, con la peggiore performance tra i paesi censiti, meno 5,5 punti a 97,9 rispetto a un anno fa e meno 1,1 punti rispetto a luglio. Il superindice ha il pregio di anticipare i cambiamenti di rotta nell'andamento delle economie mature. E adesso uno sguardo ai mercati finanziari. È ancora in collegamento con noi Deborah Rosciani. Buongiorno Deborah, come sta andando? Buongiorno Valentina. Le borse europee trattano in rialzo a metà seduta l'indomani dell'accordo fra Francia e Germania sulla necessità di adottare misure di sostegno alle banche europee. La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Sarkozy hanno annunciato la realizzazione entro fine mese di un piano per risolvere la crisi dell'eurozona, ma di fronte a questo il settore bancario resta debole, complici i timori relativi alla situazione degli istituti di credito greci dopo la decisione di Atene di salvare Protor Bank. Fa eccezione Milano stamattina, dove le azioni delle banche invece trattano in deciso rialzo nonostante il declassamento del debito italiano da parte di Fitch, che è arrivato venerdì scorso. Milano guadagna l'1,66%, i migliori titoli sono Unicredit più 3 Tenaris più 2,87 Saipem più 2,74, i peggiori invece Fiat Industrial meno 1,20 e Banca Monte dei Paschi meno 0,27%. Più vivace il mercato valutario, con l'euro che sul dollaro quota con un balzo deciso rispetto ai giorni scorsi a 1,3582. Lo spread fra BTP e Bund è particolarmente tranquillo stamattina sui 350 punti base. Oggi ricordiamo che Wall Street è aperta nonostante il Columbus Day. Sotto i riflettori anche il piano di salvataggio della banca franco-belga Dexia, nazionalizzata nel fine settimana dal governo belga. Il titolo è però sospeso dalle negoziazioni sia in Belgio che in Francia. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Ora la consueta rubrica di Radio 24 sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Due titolari di agenzie immobiliari su 10 dichiarano al fisco una perdita, dovrebbero chiudere, invece restano da anni sul mercato. Come mai? Evidentemente perché quel che dichiarano non è quel che guadagnano. Questo è almeno il sospetto che nasce dal confronto fra le dichiarazioni dei redditi del settore e il giro d'affari. 2,6 miliardi di euro quest'ultimo, secondo l'Agenzia delle Entrate, contro un reddito medio dichiarato di appena 13.700 euro. Dati che fanno drizzare le orecchie ai funzionari dell'agenzia, che hanno fatto degli accertamenti nell'ultimo anno e mezzo e hanno scoperto maggiori imposte per 96 milioni di euro in tutta Italia. Enrico Polella dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda ad esempio le compravendite immobiliari, l'attività che viene fatta è quella di incrociare le informazioni relative al numero di intermediazioni dichiarate con i dati emergenti dagli atti notarili. Operazioni di questo tipo hanno fatto emergere anche un'evasione del 50% rispetto a quello che era il giro complessivo d'affari stimato per il singolo operatore economico. E ora la cronaca. Torino è caccia al pirata responsabile di un grave incidente. Sono ancora in corso le ricerche dei due pirati della strada che ieri, con un tir rubato, hanno tamponato una macchina che si è incastrata sotto il pullman della squadra del Torino. A domare le fiamme e a chiamare i soccorsi sono stati anche i giocatori. Dei tre uomini che si trovavano a bordo dell'auto, due sono morti e il terzo è rimasto ferito. Le sue condizioni sono gravi ma stabili. L'impatto poco prima delle 22 di ieri sera al casello di Santena dell'autostrada Piacenza-Torino. I ladri avevano rubato la motrice in una ditta di Asti e poi un rimorchio con un carico di prosecco. Dopo l'incidente sono fuggiti coprendosi il volto, tagliando una rete metallica e dirigendosi a piedi verso la zona industriale di Moncalieri. Con queste due salgono a 101 le vittime dei pirati della strada dall'inizio dell'anno. Francesco Marinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Lavori in casa, guida pratica, e questo è l'allegato di oggi al Sole 24 Ore. Sentiamo. Tagliano il traguardo dei 5 milioni e mezzo di pratiche dal momento della loro istituzione i bonus fiscali per chi ristruttura la propria casa o effettua lavori per il risparmio energetico. Un risultato positivo per il 36 e il 55% che arriva proprio mentre il governo affronta il delicato dossier sul riordino dei bonus. Salvo proroghe, il 55% scade il prossimo 31 dicembre, mentre la detrazione del 36% è già confermata fino alla fine del 2012, ma rischia il taglio lineare previsto dalla manovra di Ferragosto se non sarà varata la riforma fiscale. Intanto, il costo delle due detrazioni per le casse pubbliche sui lavori effettuati nel 2010 sarà di circa 5 miliardi di euro, una buona parte dei quali però sarà coperta dall'emersione dei lavori che altrimenti sarebbero effettuati in nero, e quanto stima il Sole 24 Ore del lunedì oggi in edicola, in regalo con il quale c'è la guida pratica lavori in casa, i bonus fiscali, con le ultime novità normative dettate dalle manovre d'estate e le indicazioni per rientrare nell'ultima tornata dei bonus. Cristiano Dell'Oste, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Condono PDL ancora spaccato, Berlusconi rilancia la campagna acquisti. Lega divisa sul segretario di Varese. Egitto vertice d'emergenza dopo gli scontri al Cairo. Oggi la nona giornata mondiale contro la pena di morte. Bentornati al nostro GR. In apertura vi ribadiamo la premiazione con il Nobel per l'economia, due economisti americani, Sargent e Sims, riconoscimento andato per i loro studi sulle cause e gli effetti della macroeconomia. Ma ora parliamo degli scontri in Egitto tra copti e musulmani. Secondo fonti copte sono 36 i morti, ufficialmente invece erano 25, altri 200 sarebbero i feriti. Nel pomeriggio riunione emergenza del governo a Lussemburgo, il ministro degli esteri Frattini denuncia l'esodo di migliaia di cristiani dal paese ed esorta a fermare le violenze. Sono stati gli scontri più gravi e più ampi dalla caduta di Mubarak nello scorso febbraio. La nazione è in pericolo, ha infatti subito commentato il primo ministro egiziano Essam Sharraf. La cosa più pericolosa è giocare con la questione dell'unità nazionale e provocare la sedizione tra cristiani e musulmani, ha aggiunto, e anche tra il popolo e l'esercito. Un discorso cui è seguita l'azione. Sono una quarantina infatti gli arresti effettuati per i violenti disordini della notte. In strada si sono scontrati le migliaia di copti giunti al Cairo per una manifestazione e le forze dell'ordine. Ma chi sia stato a innescare la violenza non è chiaro. Testimoni parlano di un gruppo di uomini non identificati che ha cominciato a bersagliare i manifestanti con molotov e pietre. Gli animi si sono accesi e poco dopo sono scoppiati i tafferugli con i militari, che hanno finito con l'aprire il fuoco sulla folla. Per l'Egitto, ancora governato dai generali in attesa delle elezioni di fine novembre, sono giorni difficili, stretto com'è tra le forze opposte che vorrebbero controllare il cambiamento innescato dalle rivolte della primavera. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Su queste violenze hanno espresso una forte condanna anche i ministri degli esteri dell'Unione Europea. In modo univoco hanno detto: esprimiamo una forte condanna delle violenze esplose in Egitto. L'hanno detto poco fa e la notizia è stata battuta dall'ANSA proprio ora. E proprio su queste forze che tentano di affermarsi nel Nuovo Egitto pone l'accento Marco Giaconi, direttore di ricerca presso il Centro Militare di Studi Strategici di Roma. L'intervista è di Laura Bettini. Secondo me l'inizio della strategia della tensione in Egitto, perché tutte le forze politiche, comprese i militari, si sono indebolite nel grande passaggio dal regime di Mubarak a quello attuale, che non è ancora stato sanzionato da un'elezione politica, e quindi questo, come dire, permette sia ai servizi di Sombar Suleiman, che non sono certamente estranei a queste operazioni, sia ad altri paesi dell'area arabo-islamica, cioè, inizia la prospettiva di un grande gioco egiziano che potrebbe portare a molte sorprese. Per cui, letto lo scontro primario tra copti e musulmani più o meno integralisti, il problema sarà appunto quello di una strategia della tensione che destabilizzerà il paese, che questa è la cosa che non dobbiamo mai dimenticare quando parliamo di Egitto, è il paese del canale di Suez, quindi il paese del grande contatto petrolifero e commerciale tra est e ovest. Stop alle esecuzioni in Bielorussia, lo chiede l'Organizzazione per i diritti umani Amnesty International in occasione della nona giornata mondiale contro la pena di morte. Un colpo di revolver sparato alla nuca mentre il prigioniero cammina scortato dalle guardie lungo un corridoio semi-illuminato. La variante slava del macabro rituale dell'esecuzione è l'ultima ad essere ancora applicata sul territorio europeo, dove ghigliottina, garrota, corda dell'impiccato, plotone d'esecuzione sono stati attivi fino agli anni 60, per poi uscire progressivamente dai codici penali. La Bielorussia invece resta nel passato. Amnesty denuncia 400 esecuzioni in 20 anni, il tutto circondato dal segreto. La crudeltà va oltre l'esecuzione, le famiglie vengono informate mesi dopo, i corpi dei prigionieri uccisi non vengono consegnati e, proprio come si usava nei gulag sovietici, neanche viene reso noto dove siano stati sepolti. Minsk si ispira a Mosca ma non ne coglie i cambiamenti, nemmeno formali. Putin si è già schierato contro la pena di morte, ha imposto una moratoria che ha retto la prova di un caso clamoroso. Quando nel 2006 si è trattato di condannare il terrorista ceceno superstite del comando di Beslan, il giudice Agurazov ha esplicitamente detto: meriterebbe la morte ma sarà ergastolo. Lukashenko invece, presidente da 17 anni, tiene la sua posizione. Nel 2010 Amnesty ha registrato migliaia di esecuzioni in 23 paesi del mondo, tra i quali Cina, Stati Uniti, Giappone e India. Alla fine dello scorso anno i condannati a morte in attesa di esecuzione erano almeno 17.800. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Al microfono di Katia Caramelli, la presidente di Amnesty International, Christine Wise. 139 paesi non usano più la pena di morte. Cioè, Amnesty International è dal 77 che lotta contro la pena di morte ed erano solo 16 paesi. Adesso sono 139 e ci sono ancora 58 paesi che mantengono la pena di morte. Quindi è veramente una minoranza, perché non tutti di questi 58 la applicano. L'anno scorso sono stati 23 i paesi che hanno ucciso delle persone. Le situazioni più pesanti dove sono? L'uso più massiccio della pena di morte come numero assoluto è la Cina, e in Cina c'è anche il segreto di Stato sulla pena di morte, quindi non si riesce a verificare esattamente quante persone sono, ma sono senz'altro migliaia se non decine di migliaia. Invece il tasso più alto pro capite delle condanne a morte lo troviamo in Arabia Saudita, tra l'altro si usa ancora la decapitazione. In Europa è rimasto un unico paese, che è la Bielorussia, che usa ancora la pena di morte, e infatti la campagna di Amnesty International quest'anno per la giornata contro la pena di morte si concentra proprio sulla Bielorussia. Tracce di petrolio su una spiaggia della Baia di Plenty, una delle più belle della Nuova Zelanda. È la prova che il carburante fuoriuscito dalla porta container Rena, incagliata da giorni al largo, ha raggiunto la costa. La nave di una compagnia di navigazione italiana si era arenata il 5 ottobre in una barriera corallina al largo del principale porto di esportazione della Nuova Zelanda e aveva cominciato a perdere petrolio, ma la fuga in un primo momento era stata bloccata. Un blog italiano ha messo nei guai il ministro inglese della difesa. Ricerche accurate e un'intuizione alla fine in questa storia, è vero il principio ben descritto dai vecchi cronisti, e cioè un bravo giornalista arriva prima e va via dopo. Così Filippo Sensi ha fatto online. La notizia era quella del ministro della difesa britannico Fox, sotto pressione dai media inglesi, Guardian in testa, per la relazione pericolosa con un suo collaboratore, un certo Adam Verity, che aveva accesso diretto al ministero, distribuiva biglietti da visita che lo descrivevano come advisor e accompagnava il ministro in giro per il mondo, tutte cose che Fox aveva smentito pubblicamente. Poi, qualche giorno fa, il giornalista italiano Sensi, appunto, sul suo blog NonFoop, ha linkato dei video della TV srilanchese che mostravano due occasioni di incontro tra Fox e i suoi collaboratori, tra cui Verity e il presidente Mahinda Rajapaksa. Una volta online, la notizia ha fatto il giro del mondo e il blog italiano è stato citato dal Guardian e dai più importanti giornali mondiali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo i disagi per la compilazione online e il numero verde 800 069 701 sempre occupato, oggi numerosi cittadini in varie città hanno riscontrato difficoltà a consegnare il modello compilato del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Adriana Fracchia ha chiesto le ragioni di questi disagi a Giuseppe Stassi, dirigente del servizio censimento dell'Istat. L'entusiasmo degli italiani nei confronti del censimento ci ha sorpresi ieri, quando abbiamo avuto anche picchi di 500.000 di accessi online, che come noto hanno causato qualche disagio, anche se il sito ha sempre tenuto. Però è chiaro che avendo questi picchi di accesso si è rallentata l'operazione, però a fronte di questo abbiamo già 250.000 questionari acquisiti online, e questo è veramente un risultato notevole. Quindi, nonostante il disagio del quale ci siamo già scusati e nonostante è chiaro la concitazione di queste ore, c'è invece la testimonianza di un entusiasmo degli italiani nei confronti dell'operazione. In merito agli uffici postali siamo già consapevoli, perché noi abbiamo una rete che sta vigilando, il numero verde riferisce a noi e quindi siamo al corrente. E tenga conto che sono operativi in questo momento 14.000 uffici postali sparsi su tutto il territorio nazionale. E su 14.000 qualche disguido, qualcuno che non ha, soprattutto il primo giorno di apertura, non ha colto esattamente quello che deve fare, è assolutamente fisiologico, comprensibile. Si tratta di qualche segnalazione che verrà risolta a breve. Il numero verde è un problema di effetto domino, anche se comunque anche lì stiamo potenziando per minimizzare ad esempio i tempi di attesa. A prevenire non era meglio che curare? Il censimento è un'operazione unica, è un censimento innovativo. Prevenire, se hai tutti gli elementi, ma gli elementi c'è adesso che lo stai facendo. Noi eravamo settati su stress test che hanno agevolmente superato i 300.000 contatti in parallelo. 500.000 è stato oltre ogni più rosea previsione. Il rugby alle battute finali ai campionati del mondo in Nuova Zelanda. La Coppa del Mondo di rugby si avvicina alla stretta finale, fuori i sudafricani e gli inglesi, campioni e vice campioni nel 2007, fuori anche gli irlandesi e i fieri argentini. La finale, già si sapeva, opporrà un'europea a una squadra dell'emisfero sud. Sabato saranno Galles e Francia a giocarsi un posto nel match più ambito. Finora il Galles ha giocato meglio e con più continuità, esibendo tra l'altro giovani di altissimo livello. Ma la squadra transalpina ha ritrovato il morale dopo aver sconfitto l'Inghilterra e, come al solito, è capace di qualsiasi cosa, nel bene e nel male. Domenica la seconda semifinale sarà un super classico, l'Australia contro gli All Blacks neozelandesi padroni di casa, che partono favoriti contro un team che ha sì eliminato con molta fatica il Sudafrica, ma ha anche dimostrato parecchi limiti nella fase di conquista del pallone. Ad ogni modo ci troviamo pur sempre di fronte a un derby e anche qui tutto può succedere. Giacomo Bagnasco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Auckland. È tutto, questa edizione è stata curata da Daniele Biacchessi, Roberto Scaltritti in regia, Valentina Furlanetto al microfono. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.